Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Shut up! Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free. Una trasmissione che ha come obiettivo quello di raccontarvi lo stato dell'arte della condizione animale. Qualcosa che ci sembra importante dal momento che anche noi umani siamo animali. Animali umani, appunto. E noi ci teniamo alla nostra famiglia di appartenenza e teniamo anche ai nostri antenati non umani, giusto? Sacrosanto! La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Condurre una campagna di pressione contro l'università che ha in progetto la costruzione di nuovi laboratori per la sperimentazione sugli animali? Qualcuno ci sta provando e lo sta facendo con una prospettiva molto avanzata, rafforzando al contempo il movimento di liberazione animale nel suo complesso e connettendo questa prospettiva con altre istanze di lotta. Si tratta di alcuni attivisti americani impegnati nella campagna No New Animal Lab. La nostra corrispondente da Milano, Roberta Marino, grazie all'integratore che assume, ha avuto l'energia per andare a incontrarli durante un loro recente passaggio in Europa e ha preparato per voi questo servizio. Sentiamo. A che punto è la campagna No New Animal Lab? E quali risultati ha ottenuto? Tra un paio di giorni torneremo negli Stati Uniti e quello che faremo sarà incominciare l'anno accademico all'università. Vogliamo attirare più attenzione e più pressione sull'Università di Washington, ricordando agli studenti che ritornano e a quelli nuovi che l'università sta cercando di costruire segretamente questo nuovo laboratorio e sfidando le cose che ogni anno cercano di far passare su quanto grande l'università sia e cose di questo genere. Quindi questo è il passo principale che la campagna farà, ritornare a fare pressione sull'università e cercare al contempo di fare pressione su Kanska. Una delle cose più straordinarie che abbiamo visto in questa campagna è il supporto a livello globale che abbiamo ricevuto. Siamo in Europa in questo momento e parliamo in molte conferenze. Non avremmo mai pensato un paio di anni fa, quando abbiamo incominciato, che saremmo stati invitati in Europa per parlare a un audience internazionale. E questo riflette molto ciò che noi speravamo la campagna avrebbe fatto, perché oltre a fermare la costruzione di un nuovo laboratorio, qui si tratta anche di costruire un movimento che sia un movimento di liberazione animale di base. Questo movimento esprime una grande energia a favore degli animali ed è fantastico come abbiamo avuto la possibilità di vedere manifestazioni di massa con 5.000 persone e anche avere persone che seguono la campagna in dozzine di città internazionali. Costruire coalizioni con altri movimenti e altre comunità. Tutto ciò è diventato uno slancio di grande ispirazione che si muove verso la prossima campagna e anche oltre. Qual è il legame con altre storiche campagne come Shaq? A lot of people that are involved in the No New Animal Lab. Molte persone che fanno parte della campagna No New Animal Lab, inclusi noi stessi, partecipavano alla campagna Shark fino alla sua fine negli Stati Uniti e abbiamo organizzato manifestazioni in supporto di Shark UK. Tante persone che sono state alle manifestazioni di Shark vengono adesso alle nostre presentazioni e ci aiutano a organizzare le date di tour come questo, ci forniscono consulenza e ci danno delle letture critiche sul loro stesso lavoro. Così possiamo sviluppare un nuovo approccio imparando dalle loro campagne, imparando ciò che hanno fatto bene e quello che avrebbero potuto fare meglio. Come può essere utile l'esempio di questa lotta per il movimento di liberazione animale internazionale e in particolare per quello italiano? Venire in Europa è stata una sorpresa perché abbiamo visto come qui ci siano gli stessi ostacoli che ci sono negli Stati Uniti. C'è una perdita di potenza, di energia nel movimento di liberazione di base. È stato bello avere dei confronti con le persone a livello internazionale e parlare di quello che possiamo fare tutti insieme per supportarci a vicenda e andare avanti, per rafforzare di nuovo il movimento di base, continuare a comunicare gli uni con gli altri e far sì che questo sia uno sforzo collettivo, così da avere di nuovo la forza di un movimento di liberazione internazionale. The international strength of an animal liberation movement again. And I would just add that I think. Voglio solo aggiungere che penso che il primo passo sia di avere modi migliori, forme migliori di comunicazione tra comunità di attivisti di base in paesi diversi, perché il fatto che negli Stati Uniti esista una conferenza per i diritti animali e che in Lussemburgo ci sia una conferenza internazionale sui diritti animali non basta a rappresentare gli elementi del movimento di liberazione animale di base, almeno per quel che è la mia esperienza. Tuttavia la cosa ironica è che quando veniamo in posti come Milano, che anni fa era per noi di grandi ispirazioni per campagne come Fermare Green Hill, ma negli Stati Uniti non sappiamo niente di cosa è successo dopo che è stato chiuso. Questa mancanza di comunicazione, questa mancanza di discussione come movimento ci lascia in dei posti isolati dove non siamo molto certi di cosa fare e da cosa essere ispirati. La comunità internazionale per la liberazione animale sembra al momento molto frazionata, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti. Non so come sia qui. Ci sono tantissime cose che danno ispirazioni là fuori e penso che avere questo tipo di discussioni potrà aiutare le persone a fare le cose. There's a lot of inspiring stuff out there, and I think just having these discussions in and of itself will get people to do things. Metteremo nel nostro blog alcuni video, anche divertenti, sulle azioni creative degli attivisti di No New Animal Lab. Help! I need somebody! Help! Not just anybody! Help! You know I need someone! Help! When I was younger, so much younger than today! Annunciazione, annunciazione! Se volete incontrare, conoscere, scattare selfies con i conduttori e le conduttrici della trasmissione Restiamo Animali, non avete che da prendere un treno e raggiungerci al Festival MIVEG, che si terrà il 5 e 6 novembre a Villa Arconati, a Castellazzo di Bollate, a 5 km da Milano. Saremo lì a realizzare interviste, ma anche con uno spazio espositivo tutto nostro. Tutte le info su restiamoanimali.it o su www.miveg.org. Sempre al MIVEG, a parte noi che comunque siamo le vere star del festival, ci sarà anche uno spazio di Rete Famiglia VEG. La Rete Famiglia VEG è un insieme di professionisti della nutrizione, medici, biologi, dietisti, pediatri, ostetrici e ginecologi, con studi e ambulatori in varie province d'Italia, con competenze sempre aggiornate in nutrizione a base vegetale, nell'alimentazione pediatrica e nella donna in gravidanza e allattamento. Per contatti, www.famigliaveg.it. When I'm with you it's paradise. No place on earth could be so nice. Through the crystal waterfall, I Fiocco Arcobaleno in redazione. È appena nato, anzi, forse dovremmo dire è appena uscito dal forno, il nuovo profumato e fragrante libro di ricette del tosco vegan chef Gabriele Palloni, il tenace conduttore della rubrica Il Pasto Gentile, la nostra rubrica di cucina cruelty free. Il libro si intitola La cucina regionale italiana vegana ed è edito da Newton Compton. Per incuriosirvi e invogliarvi all'assaggio, è intervenuta l'autorevole Alessandra Giannini, una delle voci storiche della nostra redazione, chef raffinata, esigente e intransigente, che condusse al tempo la rubrica Il pasto sgarbato, versione acidificata del nostro più alcalino pasto gentile. Ne è uscito un particolare impasto che vi invitiamo ad assaporare. Italiani brava gente, ma guai a stravolgere i piatti tipici della tradizione, per capirci quelli della nonna. Gabriele Palloni, un uomo coraggioso, chef molto preparato, l'ha fatto. Ha scritto un libro dal titolo La cucina regionale italiana vegana, veganizzando buona parte del patrimonio gastronomico nazionale, i piatti forti e la tradizione del nostro stivale. Le ricette sono divise per regione e sono accompagnate da provocanti foto, ma siamo sicuri che sia possibile veganizzare proprio tutto? Personalmente preferisco sempre partire da un piatto, da una mia idea per creare piatti nuovi. Non so se è proprio possibile o utile veganizzare tutto, però l'idea è poter avvicinare alla scelta vegan con gusti della propria cultura. Il tuo libro ha più di 300 pagine ed è un librone, quindi un sacco di lavoro. Sai quanto pesa? Più o meno credo un chilo. Un chilo e 326 grammi di pura fatica. Praticamente costa un euro letto. Il libro inizia con le famose basi, comuni a tutta la cucina italiana, dal burro autoprodotto alla mozzarella vegana, toccando virtuosismi come l'autoproduzione di latte e di seitan. È davvero un libro rivolto a tutti oppure bisogna avere il gene di Ratatouille per fare le tue ricette? Io mi auguro che sia rivolto a tutti e sempre, anche quando faccio i corsi, sia alla scuola alberghiera ma anche corsi privati, consiglio sempre di partire dall'autoproduzione, quindi dalle basi, perché non credo sia difficile autoprodurre, basta provare, impegnarsi e applicarsi. L'acquafaba è di gran moda in questo momento, ma che cos'è, a cosa serve, come si usa? Sicuramente l'acquafaba ha qualcosa di affascinante e anche un po' magico, perché veder montare l'acqua di cottura dei ceci è qualcosa che lascia stupiti. Serve sicuramente nei dolci per fare delle meringhe o per rendere spumosa per esempio una mousse al cioccolato. Meringhe vegane, wow! Meringhe vegane che fra l'altro, per quello che mi ricordo, sono anche più buone delle meringhe non vegane, perché non hanno quel retrogusto della chiara dell'uovo. E Gabriele, qual è stato il piatto del tuo libro più difficile? Non uso il termine veganizzare che non ti piace, ma da rendere vegetale? Allora, partendo sicuramente da due pilastri della pasticceria più della cucina, lo zuccotto alla fiorentina e anche la pastiera napoletana. Altri piatti sono quelli, diciamo, che normalmente sarebbero a base di pesce. La mozzarella in carrozza mi ha davvero commosso, perché non la mangio da una vita e dalla foto sembra davvero squisita. Ma non è che mangiandola più che un viaggio in carrozza sia un'esperienza su un torpedone in una strada di montagna? Come tutti i piatti fritti, non ne abusiamo. Comunque, impanando con una pastella fatta con farina di ceci, si ottiene sempre un piatto molto più leggero. E anche la mozzarella all'interno, la mozzarella vegan, quindi con molti meno grassi. Stasera vai e corro culo vento, a grapiri li porti di la storia. Stasera voglio dare il pugno. Un'accusa che mi viene spesso rivolta come rappresentante sofisticato della comunità vegana è quella di utilizzare per i piatti appunto veganizzati gli stessi nomi di quelli tradizionali. È successo anche a te? Cosa ne pensi? Questa è una gogna, non è un'accusa. Sembra che commetti il più grande reato del mondo a dare lo stesso nome o un nome simile. Sempre bisogna usare vezzeggiativi o nomi ironici. Io lo uso e sono ancora vivo. Sei sicuro, Gabriele, che una ricetta come la cotoletta alla milanese non offenda nessun bipede avvinghiato alla tradizione? Io spero proprio di sì. Che qualcuno si arrabbi va pure bene. Com'è possibile preparare un pollo alla cacciatora totalmente vegetale? Per realizzare questo piatto e anche altri ho sperimentato un sistema diverso di cottura sia del seitan, in questo caso invece del muscolo di grano, che non viene cotto prima ma viene cotto lentamente all'interno della sua salsa. E questo permette al bocconcino, in questo caso, di assorbire tutto il sapore e anche di prendere una forma diversa dal cubetto che siamo abituati a vedere. Ogni tanto ci piace anche variare non solo nel gusto, certo, ma anche nello sguardo. Le seadas sarde mi hanno fatto tornare la speranza nell'umanità, però parlando di dolci vegani ci sono sempre le stesse problematiche. Solitamente tendono a rimanere troppo compatti, troppo umidi al centro. Hai dei consigli? Le seadas sono state uno dei miei punti d'orgoglio, perché erano anni che le volevo rimangiare. Anch'io. E anche io dubitavo che sarei riuscito a farle. In realtà ho trovato un impasto interno che non bagna e che rimane comunque morbido e cremoso. Senza sugna, senza strutto, senza niente. Tutto ciò è una sfoglia esterna molto croccante e vabbè, il miele vegan ormai è facile da realizzare. Per i dolci in generale, io consiglio di non appesantirli troppo di grassi. Forse un errore ricorrente è quello, per esempio, di usare dei latti vegetali, magari latte di soia o comunque dei latti carichi di grasso, che in alcuni casi impediscono al dolce di essere più soffice. Magari è meglio usare l'acqua, per esempio, o il succo di alcuni agrumi, per esempio, succo di arance, eccetera. Gabriele, la tua formazione professionale è di tipo classico. Com'è nata la tua conversione al vegan? Ho iniziato a lavorare a 15 anni e poco dopo sono diventato vegetariano. Negli anni 80, come ti puoi immaginare, non c'era una grande sensibilità su questo argomento. Se volevo fare questo mestiere, specialmente a Firenze, dovevi portarti dei bei quarti di manzo sulle spalle, insomma. Quindi, da una parte, avevo scelto di non mangiare animali, perché solo il pensiero mi faceva stare male. Ma dall'altra parte, per campare, dovevo cucinarla agli altri. Poi però, negli anni successivi, in contemporanea, diciamo, alla mia carriera nelle cucine, ho iniziato a impegnarmi socialmente per i diritti dei cosiddetti ultimi, degli oppressi, cercando di favorire dialogo fra culture diverse, approfondendo comunque una sensibilità non violenta. Ad un certo punto ho iniziato a vivere come ingiustizia anche quella che sentivo nei confronti di altre specie, non solo quella umana. Da qui ho scelto di diventare vegano. Poi ho deciso che non volevo più sconnettere il disagio che sentivo anche nel cucinare la carne per gli altri e quindi ho deciso di dedicarmi esclusivamente alla cucina vegan. Fortunatamente subito dopo si è molto diffusa la richiesta e finalmente dopo oltre 30 anni di lavoro sono riuscito a sentirmi libero in quello che faccio. E l'ultimissima domanda, ce la faremo noi comune mortali a realizzare questi piatti? Io spero di no, così venite ai miei corsi. Considerami già iscritta. Volevo ringraziare Luca Daddi per aver realizzato tutte le foto del libro e aver avuto la certosina pazienza, nonché aver messo a disposizione le sue ferie estive per realizzare tutti gli scatti. Grazie ancora per il bellissimo lavoro fatto. La cucina regionale italiana vegana, 250 ricette illustrate a cura di Gabriele Palloni, edizione Newton Compton, 336 pagine, €12,90 in tutte le migliori librerie. Che si mangia la zita, che si mangia la zita, che si mangia la zita la prima sera. Che si mangia la zita la prima sera. E nubanera de bere galante, nubanera de bere galante, nubanera de bere galante, sembra la zita la dava la nanza. Nubanera de bere galante, sembra la zita la dava la nanza. Il 21 ottobre scorso sull'Huffington Post USA è stato pubblicato un articolo sul cannibalismo tra polli allevati a terra a cura di Wayne Siang, un professore universitario specializzato in scienze comportamentali che è anche un attivista, leader della rete Direct Action Everywhere Open Rescue, che ha tratto in salvo decine e decine di animali da situazioni di abuso e ha portato sui media la verità sulla condizione animale negli allevamenti. L'articolo in questione è stato poi tradotto dall'inglese da Milena Sanfilippo e il 23 ottobre anche in Italia sull'Huffington Post siamo venuti a conoscenza di questo ennesimo retroscena di indicibile sofferenza e morte riguardante polli allevati a terra. Una metodologia di allevamento che, secondo quanto dicono gli allevatori, dovrebbe essere sostenibile e rispettosa del benessere animale. Uno studio ha mostrato in realtà che i tassi di cannibalismo aumentano del 3000% nelle aziende che praticano questo tipo di allevamento. Ed è un modo orribile di morire. La cloaca della gallina, che è l'equivalente della vagina umana, viene presa a bersaglio dagli altri perché è tenera, carnosa e ricoperta di fluidi. Impazziti a causa dell'affollamento, gli uccelli attaccano questo punto debole, arrivando a tirar fuori col becco gli organi interni. Le vittime di questi attacchi muoiono pezzo dopo pezzo. Nella fattoria della Costco, uno dei più grandi colossi dell'alimentazione negli USA e in Canada, scrive Siang, ho visto un esemplare insanguinato e incapace di avanzare, trascinarsi su un ammasso di letame nel disperato tentativo di fuggire. Nonostante gli sforzi, il nostro team non è riuscito a salvare la piccola gallina. Ma il cannibalismo è solo la punta dell'iceberg. Dalla qualità dell'aria alle fratture, le galline spesso patiscono molto di peggio in un sistema di allevamento a terra. Le morti premature sono triplicate. Se un simile aumento della mortalità venisse registrato in una prigione umana, ci sarebbero accuse penali nei confronti del direttore. Il problema fondamentale è che gli allevatori di galline schiacciano questi individui in uno spazio che ha delle dimensioni di un foglio da stampante. Immaginate di vivere tutta la vita chiusi in una piccola doccia. Ora, immaginate di vivere la vostra vita in quello stesso spazio, ma con migliaia di estranei impazziti che si accalcano intorno a voi. Ecco l'alternativa tra l'allevamento con gabbia o a terra. Nessuna delle due opzioni è umana, neanche lontanamente. Le società operano in un mondo dove gli azionisti pretendono guadagni, dove gli animali sono oggetti legali che aiutano a creare determinati guadagni e dove non esistono norme significative che regolino il passaggio da animali a profitti. Come dimostrato da altri grandi movimenti per i diritti, il progresso arriverà solo cambiando il nostro sistema politico. Per farla breve, liberiamo le galline, ma la libertà per gli animali non arriverà con l'allevamento a terra. Arriverà quando inizieremo a custodire la loro libertà, la loro dignità, perfino il loro stato di persona come un diritto fondamentale. E come non essere d'accordo con questo articolo? Doloroso, ma necessario. Sempre dagli Stati Uniti arriva la notizia che nello stato del Massachusetts nel mese di novembre più di 6 milioni di cittadini saranno chiamati al voto sulla promozione di una legge che non ha precedenti negli Stati Uniti d'America. Il quesito numero 3 sulla loro scheda chiederà di eliminare le condizioni crudeli per lo stallo di polli, vitelli e maiali negli allevamenti intensivi e di vietare la vendita di prodotti che siano stati ottenuti da animali detenuti in queste condizioni. Sono circa 9 miliardi gli animali che vengono macellati ogni anno negli Stati Uniti. Qual è la differenza fra le altre leggi approvate fino ad ora in altri stati americani sul tema? Oggi, per la prima volta, si vota sull'abolizione di 3 situazioni contemporaneamente: le gabbie di gestazione per le femmine di suino, le gabbie troppo piccole per i polli e le casse di isolamento per i vitelli. In caso di vittoria, verrebbero abolite tutti e 3 questi metodi contemporaneamente. Se vincessero i sì, l'obiettivo è anche quello di impedire la vendita di carne allevata in questo modo fuori dallo Stato. Non stanno mancando le proteste dei produttori e degli allevatori. Nonostante questo, pare che la vittoria del sì non sia così lontana, dato che sondaggi indipendenti darebbero ampio margine di vittoria all'approvazione della legge. Vi faremo sapere i risultati non appena verranno pubblicati. Restando su alimentazione e produzione di alimenti, vi proponiamo una rubrica letteraria a tema. Stefano Liberti è uno dei più significativi giornalisti d'inchiesta attivi oggi in Italia. Lo ricordiamo in passato per un volume dedicato al cosiddetto land grabbing, cioè l'accaparramento di terreni fertili in Africa e Asia da parte di stati nazionali e multinazionali. Stavolta, in un libro intitolato I Signori del Cibo, pubblicato da Minimum Fax, compie, come recita il sottotitolo, un viaggio nell'industria alimentare che sta distruggendo il pianeta. Liberti si occupa di 4 filiere: i maiali, i tonni, la soia, i pomodori. È un libro ricco, importante, aggiornato, di qualità, e mostra a nostro avviso 2-3 cose fondamentali. Una è che il cibo, anche quando si tratta di animali, quindi di esseri viventi, è ormai parte delle cosiddette commodities. Le carni di maiali, tonni, potremmo estendere il discorso, sono cioè trattate dai mercati internazionali alla stregua di metalli, petrolio e altri minerali. La seconda è che si tratta di filiere inserite pienamente nel circuito dell'economia finanziaria globale, con i fenomeni che le sono tipici: oligopoli sovranazionali, sovrautilizzo delle risorse e sfruttamento del lavoro umano ai limiti dello schiavismo. Un terzo elemento è la prospettiva di breve periodo tipica dell'economia globale. L'idea della massimizzazione del profitto associata a una totale libertà d'azione è assoluta, dogmaticamente praticata. In Cina Liberty tocca con mano tutti questi fenomeni. Parla ad esempio con i manager della Shuangui, l'azienda che nel 2013 ha rilevato la statunitense Smithfield, investendo alcuni miliardi di dollari. In Cina il consumo di carne di maiale è quadruplicato dal 1970 a oggi. Si tratta di 39 kg all'anno a testa. Negli allevamenti cinesi sono prigionieri in questo momento e condannati a morte circa 700 milioni di suini. Il governo cinese considera la carne di porco uno strumento di controllo sociale. È un alimento che non deve mai mancare sulle tavole dei propri cittadini. Perciò il governo mantiene riserve strategiche sia come carne surgelata sia come capi d'allevamento per evitare carenze o fluttuazioni dei prezzi che potrebbero suscitare malcontento e quindi risultare pericolosi. Liberty va anche negli USA, negli allevamenti intensivi, che convivono con le lagune di merda dove si concentrano gli escrementi di migliaia e migliaia di maiali. Un liquame inquinante e tossico che ha radicalmente cambiato il paesaggio e le condizioni di vita di interi stati. In generale si può dire che l'industria del maiale, come quella del tonno, hanno perso ogni contatto, non solo con gli esseri viventi considerati come inerme materia prima, ma con lo stesso ambiente di vita della nostra specie. Ma la logica economica che la presiede non permette di agire diversamente. E così le abitudini alimentari sono pilotate attraverso le scelte merceologiche e gli strumenti del marketing, anche se i più, purtroppo, pensano di compiere scelte libere. La stessa salute umana, ovviamente, non ha alcun ruolo in questo inferno. Liberty mostra come tutto ciò sia senza futuro, per oggettivi limiti della natura, a sopportare gli effetti di una logica tanto scellerata. E il giornalista sembra sconcertato e impotente di fronte ai signori del cibo e alla loro assenza di prospettive. Ma a ben vedere il discorso non cambia se proviamo ad estenderlo oltre le filiere da lui esaminate alla logica stessa dell'intera economia globale. D'altronde Liberty non si sofferma se non di sfuggita sull'enorme e ingiusta sofferenza animale che vede e cita a malapena, considerandola evidentemente inevitabile. È un limite questo di sguardo che lo porta a considerare con un eccesso di benevolenza, parla addirittura di idealisti, quei produttori impegnati negli allevamenti biologici o nella pesca di tonni, con sistemi non invasivi. Questi idealisti, dice ovviamente Liberty, sono poco più che una pittoresca curiosità, perché i consumi sono così grandi da rendere obbligate scelte diverse dalla produzione di piccola scala. La questione quindi è più profonda, più grande, più generale. Liberty non propone soluzioni, tuttavia il suo libro aiuta a capire come la questione animale debba essere calata nelle dinamiche concrete della nostra società, quindi dell'economia finanziaria globale, quindi, se vogliamo impegnarci per la liberazione animale, all'interno di un'ipotesi di trasformazione sociale che poggi l'idea di convivenza, di organizzazione economica, di futuro, lontano dagli attuali pilastri della società, che sono l'ideologia della crescita, il primato dell'economia nelle scelte collettive, la violenza sistemica del più forte sul più debole, l'indifferenza per le esigenze del pianeta Terra. Stefano Liberty, I signori del cibo, minimum fax, 19 euro per 327 pagine. Siamo in chiusura, ringraziamo le voci che hanno reso possibile questa puntata e che sono quelle di Roberta Marino, Jay e A della campagna No New Animal Labs, Alessandra Giannini, Massimo Chiari, Gabriele Palloni, Lorenzo Guadagnucci, Giuseppe Coco e la Super Ranger Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.